Letterale Connettive presenta Controessenze, la rubrica letteraria delle donne, mujeres, femme, women, mulieres, foe, uniques, mujeres. The cauldron was a bubbling, the flesh was lean, and the women moved forward like piranhas in a stream. And they spread themselves before me, an offering so sweet. And they beckoned, and they beckoned, come on, darling, eat. Eat the summer cannibals, eat, eat, eat. You eat the summer. Buonasera a tutte e a tutti, stasera siete all'ascolto della trasmissione Controessenze a cura di Connettive e questa sera vi proponiamo alcuni estratti del seminario internazionale sul modello nordico tenutosi a Roma il 19 e 20 gennaio di quest'anno. Ricordo, per chi non avesse seguito le trasmissioni precedenti, che il seminario è stato organizzato e voluto e dalle associazioni Iroko Onlus, Resistenza Femminista, Salute Donna, UDI Napoli e in collaborazione con le organizzazioni internazionali Space International, CATV e Norwegian Women's Front. In questa puntata ci concentreremo su due interventi in particolare. Il primo della sopravvissuta tedesca Marie Merklinger, di Space International, ex prostituta nei bordelli tedeschi, che racconta la sua storia e il difficile percorso per uscire dall'industria prostituente, e lì considerato un lavoro come un altro. Il secondo intervento è tenuto da Agnete Strom del Women's Front Norvegia, che affronta la situazione attuale e la legge abolizionista norvegese. L'intento del seminario è stato quello di confrontarsi sui problemi della tratta e della prostituzione per promuovere una legge efficace contro lo sfruttamento sessuale in Italia e anche per discutere le conseguenze della regolamentazione. Negli ultimi 20 e 30 anni la tratta di donne e minori dai paesi poveri verso l'Europa per fini sessuali ha enormemente cambiato il volto della prostituzione nel continente. La risposta di alcuni governi europei come Germania, Olanda, Danimarca, Austria, Spagna, la risposta al problema di questi governi europei è stata quella di regolamentare la prostituzione. A livello nazionale e internazionale sono due gli approcci che si confrontano sulla questione della prostituzione. Uno ne sostiene la regolamentazione, la riconosce come lavoro e chiede che sia eliminato il reato di favoreggiamento, in modo che il mercato sia liberalizzato e quindi coloro che gestiscono e lucrano nei vari settori dell'industria del sesso, senza però prostituirsi, come i proprietari di bordello, chiedono che questi non vengano penalizzati. La prostituzione è dunque una scelta della donna che così esprime liberamente la sua sessualità. L'altro invece considera la prostituzione una violazione dei diritti umani e della dignità della donna, rifiutando l'idea che essa sia un'opportunità di lavoro. La prostituzione è invece una violenza esercitata dagli uomini sulle donne, quindi in contrasto col principio di uguaglianza che causa e promuove la tratta e lo sfruttamento sessuale di donne e bambini, impossibile da sradicare finché la società accetta l'uso dei corpi delle donne come corpi di servizio. Negli ultimi anni molti paesi, quali la Svezia, Norvegia, Islanda, Lettonia, l'anno scorso la Francia, quest'anno l'Irlanda del Nord e anche il Canada, Riconoscendo l'origine patriarcale della prostituzione e della tratta e seguendo quindi le politiche delle Nazioni Unite su tali questioni, hanno abbandonato la regolamentazione della compravendita delle prestazioni sessuali per adottare il modello nordico. I criteri su cui si basa questo modello nordico sono i seguenti. Per prima cosa, le persone comunemente dette prostitute lo diventano per necessità di sopravvivenza e non per aver avuto una vera possibilità di scelta tra varie opzioni. Non devono perciò essere puniti per la loro attività, ma la legge deve piuttosto garantirlo. La questione si deve spostare su chi compra le prostitute in cambio di servizi sessuali, poiché tale individuo ha il potere economico e la sua scelta è libera, la sua. Inoltre lo Stato deve offrire risorse necessarie per incoraggiare e sostenere chi desidera uscire dalla prostituzione affinché possa farlo in maniera dignitosa. Crediamo che sia necessario riflettere su questi motivi per cui alcuni uomini sentono di avere il diritto di comprare le donne per sesso, sull'emarginazione sociale e le conseguenze psicofisiche della prostituzione sulle donne prostituite, e anche sull'intreccio di fattori economico-politici e socioculturali nel funzionamento del sistema prostituente, espressione per noi della violenza patriarcale. E quindi, dopo questa breve introduzione, passiamo all'ascolto degli interventi di Marie Merklinger di Space International e di Agnete Strom del Women's Front Norvegia. Buon ascolto. So, just want to say hello. I'm Marie from Germany. I want to introduce myself to the ones who haven't been yesterday at the parliament. Allora, ciao a tutti, sono Marie, vengo dalla Germania e voglio appunto presentarmi qualcosa di me a coloro che non erano ieri in Parlamento. Just in brief, I was over 42 years old. I was in my middle 40s as I entered prostitution. Avevo circa 42 anni quando sono entrata per la prima volta nella prostituzione. It was in a situation of completely desperation about paying my bills. I was in the age, if you're 40 in Germany, you're too old for the employer market, because if you're turning about 45, 50, they cannot fire you because of social circumstances, so they try to prevent to hire older people. Quindi era una situazione di assoluta disperazione finanziaria, non sapevo come pagare le mie bollette, perché per il mercato del lavoro tedesco a 40 anni sei troppo vecchia, soprattutto perché poi secondo la loro legge quando hai 45-50 anni non possono più licenziarti e quindi cercano di prevenire questa situazione in modo che tu non entri troppo tardi nel mercato del lavoro. So I thought about what I can do. And I thought I did everything to fix my situation myself, because I'm like many women, I want to fix my situation myself, I'm strong, I'm feminist, I can manage my life on my own. And I thought I did everything and I tried every job, but then I thought, oh, prostitution, you can sell yourself, it's like a one-night stand, it's legal, it's a job like any other, why not? I'm a strong person, I'm a grounded woman. Allora ho pensato a che cosa potessi fare in questa situazione di grande disperazione quando avevo provato di tutto e non trovavo niente. Alla fine ero forte, una femminista e ho detto bene, posso provare a vendere il mio corpo, è legale, è un lavoro come un altro, io sono forte, alla fine sarà come un one night stand, cioè un rapporto occasionale. Tutti i lavori sono vendita del corpo. Sì. I put an advertisement on the internet, it's very easy, it's about 30 euro per month, you have to pay for this advertisement, put a profile on, and it didn't take more than 15 minutes, 20 minutes, the first John, the first sex buyer approached to me. Quindi io semplicemente ho messo il mio annuncio su internet, ho costruito il mio profilo e in circa 50 minuti c'era subito il primo compratore che mi contattava. I don't want to talk about all the special experience of violence I made, like gangbangs and things like that. I think it's enough to tell you that I experienced it. But what I found out is that it's extremely hurting, extremely... It's something you have to do. You have to work extremely against yourself. If you have to allow someone, normally you... even recognize him or want to touch him or want to give him a hand to let you penetrate. He penetrates you and he's doing with you what he wants to do. While I was negotiating with the Johns, with the sex buyers, it was always about what they want to do with me, what they want. So of course I said, oh, I like it very much to have a deep throat or something like that. Oh, I love, I know. Because if I don't do that, he won't buy me. He won't pay me. So, of course, I agree and say, oh, it's great. I consent. But I needed the money, in fact. I don't needed the man. And it was not about fulfilling my sexuality. It could only be fulfilling my sexuality if it is about to completely, completely give up, you know, give up my own personality, my own soul, my own wishes and my own desires. Allora, questa è stata un'esperienza estremamente dolorosa. È una praticamente non voglio parlare nel dettaglio di quello che ho vissuto in termini di violenza. Certo, ho avuto esperienza anche per esempio di gangbang e molto altro. È tutto quello che è terribile, che devi andare contro te stessa, contro la tua stessa volontà, permettere a qualcuno a cui non vorresti neanche stringere la mano, di cui non vorresti neanche sentire l'odore, e devi permettere a questa persona di penetrarti. E quello lo fa perché è lui che vuole fare questo a te. E io cercavo di negoziare i termini di questa cosa con i compratori, ma ero costretta a dirgli sì, mi piace moltissimo il sesso anale o la penetrazione orale profonda, ma è semplicemente perché altrimenti lui non mi avrebbe pagato, io avevo bisogno dei soldi. Ma è chiaro che non aveva niente a che vedere con i miei desideri, niente a che vedere con la mia sessualità, e per niente a compensare la mia sessualità. L'unica cosa che ottenevo è di lasciare fuori me stessa, i miei desideri, la mia sessualità e tutto quello che anche era la mia personalità e me stessa. Then I found a job, and I had this job for 1 year. I never stopped trying to find a regular job, so I found a job. It was limited to 1 year, and after this year, I lost it. And then it started that I found out I'm deeply traumatized. I never thought in the time I've been in prostitution that it's traumatizing me or that it's dramatical for me to do that. But afterwards, I realized I woke up in the mornings crying, completely desperate, moody, and I even thought I don't know myself like that. E praticamente poi avevo cercato anche di trovare un altro lavoro dopo la prostituzione, che era durato solo un anno, poi l'avevo perso, ma da subito ho capito che ero fortemente traumatizzata da quello che avevo vissuto, una cosa che io assolutamente non pensavo, una cosa drammatica. Un giorno mi sono scoperta a piangere, completamente disperata, e non capivo, non riconoscevo più me stessa, perché non ero così che io ero come personalità, e invece mi sono scoperta disperata. So I soon found out that the only reason for my desperation and my state in that time must be the time in prostitution. So I tried to find help, and I couldn't find help. In my county, you have to search the help in your county. They told me as well, we have 5 real big brothels in that place. They told me, we never needed that before. Nobody reached out for help. So I went to the health service, the governmental health service for prostituted women. But they told me, we never needed, nobody asked for help, but we know most of them don't do it by choice, but we can't do anything. So my desperation turned into anger. Quindi la mia disperazione, ho capito che tutto quello che stavo provando era la conseguenza di tutto il tempo che avevo passato nella prostituzione. A quel punto ho capito che dovevo cercare aiuto. E allora sono andata nella mia regione, c'erano addirittura 5 bordelli, e quindi sono andata a chiedere aiuto per come uscire da questa situazione, e mi hanno risposto che nessuno aveva mai chiesto aiuto, che loro non sapevano come gestire questa cosa. Allora mi sono rivolta a associazioni appunto legate al governo, e mi hanno risposto appunto nessuno chiede aiuto, perché questa è una scelta, è stata la tua scelta, e quindi noi non possiamo darti, non è previsto nessun tipo di aiuto. E quindi la mia disperazione da quel momento si è trasformata in rabbia. So I started writing on blogs on the internet and things like that, and I made research on the situation in Germany, found out for about 300 counties we have in Germany, we have about 30 programs associated with health for prostituted women, and 20 of them are pro-prostitution and mainly offer help to enter sex industry. They offer mostly help to do the taxes and things like that. So my activism started. Allora, ho cominciato a scrivere un blog su internet, ho fatto delle ricerche da sola sulla situazione che era in Germania, e su 3.000 praticamente regioni, diciamo organizzazioni, ho trovato 40 programmi per donne, di cui di questi 20, 40 programmi di aiuto per le donne, 20 sono pro prostituzione, ma in questi programmi aiutano semplicemente a entrare in industria del sesso, non è previsto niente per uscire dall'industria del sesso, ma solo per favorire l'entrata. So the effect of my activism is that I know a lot about the situation in Germany, and I'm talking to the women, not the academics, not the escorts, which are mostly themselves are pimps. I'm talking to the women in the brothels, the 90% women in Germany from Bulgaria, Romania, which are mostly Romney people. Romnia, that means they are a minority in the countries where they come from. They are really hated all over the world. They didn't find anywhere a place where they can stay, and they are accepted. And if you ask this woman, if I offer you a job, would you leave prostitution? And they say, immediately, just pay me 2 euro an hour. I will do that just to get out of it. The German men are so ugly. They don't wash. They don't respect us. Allora, praticamente l'effetto del mio attivismo, io sono diventata l'attivista e che so tutto del mercato tedesco, parlo con le donne, non magari con certe escort che sono invece delle sfruttatrici, ma principalmente con tutte le donne in prostituzione, di cui il 90% vengono dalla Bulgaria, dalla Romania, sono Rom, cioè sono minoranze anche nei loro paesi di origine, e quindi sono rifiutate anche nei loro paesi di origine, oltre che in Germania. Se chiedi a queste donne, se io ti offro un lavoro, un altro lavoro, vorresti uscire? Loro immediatamente ti rispondono, sì, anche se mi paghi 2 euro sono disposta a uscire, purché mi togli da qui, perché sono costretta a stare con uomini, gli uomini tedeschi sono brutti, non si lavano, e non voglio essere costretta a questo. So I just make now a few points, just facts to know for you. We had a trial a few months ago. A woman, she jumped out the window of a brothel because she was beaten by her pimp. And afterwards, she went to the police and made a report. But the judge said, no, that's not a crime. It's just a job accident. It's just a risk of job. So she had to pay for the trial and everything. The brothels in Germany are very safe. It's safe in legalism if you have a legal system of prostitution. So we have several cases of women beaten nearly to death in German brothels. One of them happened 2 years ago in Cologne, in the middle of the city. The woman was beaten into coma. She's still in coma. She's still in hospital in Germany. Her two children alone in Bulgaria. So that's the safety of prostitution. Because always, like Taina said, it doesn't matter if you do it in a car, if you do it in the woods, if you do it in a backyard or somewhere, or in a nice hotel or in a so-called safe brothel. You're always alone with a man you don't know. It can't be a serial killer, it can't be a rapist, it can't be anyone. You don't know him, and you always put yourself in danger if you are alone with a man, especially if you don't know him, and especially if you want money of him, and especially if they know that they always push you a little forward, a little forward. You know, please do that, do that, do that. Quindi gli effetti, vorrei parlare degli effetti di questa legge tedesca, quello che succede veramente nei bordelli. Adesso noi abbiamo partecipato, perché Maria è un'attivista, a un processo praticamente di una donna prostituita che si è buttata dalla finestra perché era stata picchiata dal suo sfruttatore. L'abbiamo riportato tutto quello che è successo alla polizia. La polizia ha detto che non c'era un crimine, era un incidente sul lavoro e fa parte dei rischi del lavoro. Quindi non hanno nemmeno, hanno fatto pagare questa donna anche per il processo, quindi lei ha dovuto pagare anche le spese processuali. E vorrei dire qualcosa sulla sicurezza nella prostituzione in Germania, perché si parla sempre che la legalizzazione rende la prostituzione sicura. No, non è assolutamente vero. Di recente una donna della Bulgaria è stata picchiata a morte, perché capitano moltissimo che gli sfruttatori picchino le donne. È stata questo successo a Colonia, nel mezzo della città. È stata picchiata quasi fino alla morte, ridotta in coma, è ancora in coma, ha due bambini in Bulgaria, lasciati in Bulgaria, e è ancora in queste condizioni e non si fa niente. E come Marie si vuole collegare al discorso di Tania, che dice non importa dove accade la prostituzione, può essere una macchina, può essere un hotel meraviglioso, può essere un bordello che si considera sicuro come questi tedeschi, ma sei sempre sola con un cliente, e questo compratore non lo conosci, non sai chi è, potrebbe essere uno stupratore, potrebbe essere un serial killer, stai semplicemente mettendo te stessa in una situazione di rischio, e questo oltretutto il rischio aumenta perché tu hai bisogno dei soldi, quindi devi chiedere soldi a questa persona, e questa persona cerca sempre di porre il limite oltre di quello che tu gli dai, i limiti che tu gli imponi nella transazione, e lui cerca di dire sì, fai per favore anche questo, anche quello, perché sa che hai bisogno di soldi, e quindi diventa ancora più pericoloso. So now I want to tell you about what's possible. It's possible to gangbang with women pregnant. They did it. It's documented. Teeny Tina, she was 19, 6 months pregnant, 15 men, and it was prohibited to use a condom, and they did it 3 times until she was in the 9th month pregnant. We tried to prevent her, but the police said it's a job like any other and it's her choice. So that's what's possible in Germany. It's possible 75-year-old women, they still have to go on the streets and sell themselves because they did it all their lives and they don't have any money left to live on their retirement or something like that. Then I want to tell you about STI. As they said, it's not a problem or it's not a big problem. A few years ago, the Robert Koch Institute said it's not a big problem and prostituted women are less infected than the rest of the population in Germany. But a few weeks ago, the health service, the German health, governmental health service, made an appeal to use more condoms because we have a big problem with syphilis. And that is interesting for everyone. In Germany, we have now syphilis bacterias, which are even resistant to the last antibiotic. We have the emergency antibiotic. So that means if people now are infected with syphilis, it might be a death penalty for them, because you can't cure it without antibiotics. And in Germany, we have now several bacteria of syphilis, which are resistant even to the emergency antibiotics. Think about it. And in Stuttgart, it's one of the towns where we have numbers, 90% of the women are infected with syphilis, and not only in the vagina, it goes to your whole system, that's the nature of syphilis, but it starts for that women in the eyes and in their throat, cause the joints, and the women think it's safer. So it's a big problem, the women get blind, you know? Benissimo, adesso traduco questa cosa molto pesante. Allora, praticamente abbiamo il caso, per esempio, sono molto diffuse, e queste sono anche su internet, le gang bang per le donne che sono in stato interessante, e, per esempio, c'è il caso di Tiny Tina, dove ci sono tutte le foto su internet di questa gang bang a cui è stata sottoposta. Lei era praticamente incinta di 6 mesi, c'era la fila di 15 uomini, nessuno di loro che usava il preservativo. Sono state fatte altre due, dopo queste sono state fatte altre due gang bang fino al 9° mese di gravidanza, e questo è stato denunciato alla polizia, ma la polizia ha detto che è un lavoro, e che lei è una ragazza rumena di 19 anni, è un lavoro, è la sua scelta, e quindi non c'è nessun problema, va bene così. Ovviamente oltre a questo caso, quindi queste sono molto frequenti, sono anche filmate nei bordelli queste gang bang. Poi abbiamo il grosso problema, gang bang sono praticamente come stupri di gruppo, cioè una donna con molti uomini, in questo caso 15 uomini, e è sempre senza preservativo, è scritto nell'annuncio che non si usa preservativo, gang bang si chiama. E poi c'è l'altro problema delle... Sì, sì, no, no, era nella stanza, ci sono le foto. Insieme, tutte le aperture nel suo corpo, tutte le aperture nel suo corpo. Sì, perché ovviamente è vaginale, anale e orale. E dico una cosa sulle... Sì. Scusate, interrompo brevemente per dire, i tempi sono slittati un po' perché abbiamo ancora una presentazione di Annetta, quindi anziché all'1 finiamo all'1:30, se siete d'accordo, in modo da darci tempo anche per fare qualche domanda. Sì. Va bene? Just an announcement, in view of the time that we cannot really finish at 1, so we are extending it to 1:30, so Annetta has to make her presentation, and also to give a small space for people to ask questions. Yeah, but this is very important. Yeah, no, this is important, translated. Allora, adesso traduco la parte importante sulle malattie sessualmente trasmesse di cui ci ha parlato. Marie dice che c'è l'enorme problema della sifilide. In realtà, secondo il governo, veniva detto che per quanto riguardava le malattie a trasmissione sessuale, le persone prostituite erano meno infettate del resto della popolazione tedesca. Ma in realtà quello che è stato un annuncio, diciamo un'emergenza, uno scandalo che poche settimane fa è avvenuto sui giornali tedeschi, è una emergenza del Servizio Sanitario Nazionale, che proprio annuncia questo e dice che bisogna usare più preservativi, stanno lanciando questo allarme, usate più preservativi perché la sifilide è esplosa, e è una sifilide diversa a questa che si sta diffondendo, perché è più resistente agli antibiotici, addirittura è talmente resistente che resiste anche agli antibiotici d'emergenza, i cosiddetti antibiotici d'emergenza, quindi diventa una sorta di pena di morte ormai la sifilide in Germania, perché non puoi curartela neanche con gli antibiotici di ultima generazione, quelli di emergenza. Specialmente a Stoccarda c'è un 90% di donne infettate dalla sifilide, e la sifilide non colpisce solo la... Sì, delle prostitute sono infettate dalla sifilide a Stoccarda, e non sono soltanto nella vagina, ma si diffonde nel corpo, e quindi soprattutto negli occhi e nella gola, per le pratiche che gli uomini chiedono, cioè l'eiaculazione facciale negli occhi e a livello orale, e quindi si diffonde ovviamente nel... anche di ingoiare lo sperma. Certo, è ovvio. Lo impongono, non puoi sputare. No, assolutamente, fa parte della pratica. Non puoi sputare. No, se... pagano per questo, è un servizio che viene pagato extra, e quindi non puoi fare. L'accettazione di questa pratica è scontata, nel senso che è conosciuta, obbligatoriamente si deve fare anche queste forme. Certo, basta leggere alcuni drinking book house, they're asking that you can refuse the ukulation for things or not. Can you refuse this practice? What will you do? Yes, if they pay, you know. It happened to me. When they are talking about the system, it all came out of my mind. Show some video where they are very graphic, where this happens, yes, and people can see. But people may not have the, you know, it makes them want to throw up to see some of these videos. They are really terrible. No, se volete avere un'idea di che cosa viene chiesto nei modelli, c'è un menu che ha pubblicato, gliel'ho detto adesso a ovviamente Marie fa parte di un gruppo di attivismo che si chiama Space International e lavorano con noi e soprattutto con Ingeborg Kraus, che è una psicologa che si occupa del legame tra tratta e prostituzione, e lei ha pubblicato un vero e proprio menu che c'è nei bordelli, menu alla carte che puoi ordinare varie prestazioni sessuali, tra cui è previsto praticamente non solo l'uso, non metterti il preservativo alla colazione facciale, ingoiare lo sperma, urina, feci, doppia penetrazione anale, tripla penetrazione anale, doppia penetrazione vaginale, gang bang, è tutto previsto. Se voi andate, c'è proprio un vero e proprio menù, lei ha parlato in una conferenza in cui ha spiegato quello che viene chiesto normalmente nei bordelli. Ok, thank you. Thank you so much, Marie. Thank you. Now we'll hear the presentation by. So if there's no question, I just want to put in the round. It's a question to you. Yes. So if the situation is worse in the Nordic model and in France than in legalization for the women in prostitution, I ask you, why don't the French women come to sell themselves in the Brussels, right at the border to France? Why don't come the Swedish women to Germany to sell themselves if the situation in Sweden is so bad? Because everyone is coming to Germany because it's legal and it's so good. It's just a question to think about. Allora, una domanda al pubblico, che è una domanda importante. Allora, come mai le persone, una domanda per il pubblico, come mai Marie chiede, che è stata nel modello regolamentarista tedesco, come mai, se questo modello è così vincente, le persone che sono in Francia o in Francia, ad esempio, potrebbero andare ai confini e andare nei bordelli tedeschi, dove viene propagandato che è sicuro e che è migliore per le donne, quindi potrebbero scappare dalla Francia, andare semplicemente in confine e andare nell'industria tedesca, e come mai dalla Svezia non si spostano le donne nei bordelli tedeschi? Questa è la domanda. Se è così migliore, perché non succede, perché non c'è questo trasferimento di donne, e perché invece i trafficanti, come sappiamo dalle intercettazioni, considerano ormai la Svezia un posto da cui scappare, perché non è più conveniente portare le vittime di tratta in Svezia, visto che è cambiata la legge. Puoi fare un business enorme in Germania, perché andare in Svezia quando possono? La domanda viene scoraggiata, il numero della prostituzione, il numero dei clienti si abbassa, quindi non c'è più un meccanismo per cui. Adesso una cosa che io ho imparato da Maria a Londra, quando l'ho incontrata nel 2013, è che ci sono queste offerte speciali, no? Il prezzo delle prestazioni sessuali è crollato, quindi adesso per pochi soldi puoi comprare una donna, ti fai la sauna e hai anche da mangiare nei mega bordelli tedeschi, quindi è assolutamente conveniente. Grazie infinite. Adesso c'è la presentazione dalla signora Agneta. Avete ascoltato L'intervento di Marie Merklinger di Space International, ex prostituta nei bordelli tedeschi, che ha raccontato la difficile situazione delle prostitute in Germania. Il prossimo intervento è di Agnete Strom del Women's Front Norvegia, che affronta la situazione attuale in Norvegia e la legge abolizionista norvegese. Allora, se Agneta si è presentata dicendo che fa parte di questa associazione che è il Norwegian Women's Front, associazione norvegese femminista, e ringrazia per aver organizzato questo evento, essere in mezzo a noi. We started out in the 70s, the organization started out in the 70s to study pornography. And that was only one of our issues as a women's organization, but we started out studying pornography and we discovered a world where women were a commodity. Abbiamo iniziato la nostra lotta negli anni 70, soprattutto nello studio della pornografia, e quello che appunto volevamo combattere era proprio l'idea patriarcale che la donna fosse appunto un oggetto da comprare. We cannot see any difference between how women are presented in pornography and how women are presented in prostitution. Non vedevamo nessuna differenza tra come le donne erano presentate nella pornografia e come erano presentate nella prostituzione. Today you have heard Grégoire explain the French law, and the French law is an ambition step forward, and I hope that the Italian lawmakers and feminists will learn from the French law. That is at the moment the best we have. Praticamente Grégoire ha parlato della legge francese che è stato un ambizioso passo in avanti, e attualmente la legge francese è la migliore che abbiamo. I will tell you about how we got the law in Norway. That the one we got in 2009. Adesso vi parlerò della legge norvegese che abbiamo ottenuto nel 2009. Avete anche la traduzione in italiano nella cartellina che abbiamo distribuito, se non ce l'avete ve la diamo dopo, c'è tutta la parte tradotta. Yeah. In Norway the law was in Norway the law that criminalized the buying of sex was introduced January 2009. So what happened before and what happened since? In Norway the idea of criminalizing the demand for paid sexual access to the human bodies, criminalizing the buyers of sex, that started in 1981. Allora, la legge che criminalizza questo sesso è stata introdotta nel gennaio 2009. Cosa è successo prima della sua introduzione? Cosa è successo da quel momento in poi? In Norvegia l'idea di criminalizzare la domanda di accesso a pagamento a corpi umani, compratori di sesso, ha avuto inizio nel 1981. From 1979 to 1981, a fieldwork and a research program took place targeting prostituted young girls in the streets of Oslo. And the program was geared at offering them an exit out of prostitution. When the program ended, one of the recommendations to the municipality of Oslo was to criminalize the buyers of sex, saying that such a law would be a tool in the work to limit the demand and to signalize clearly that the society does not accept the buying of a human being. And such a law could make potential clients reluctant to become active clients, and that active clients would not repeat the action. Quindi dal 1979-81 è stato realizzato un programma di ricerca e di studio sul campo incentrato sulle ragazze prostituite sulle strade di Oslo, teso a offrire loro una via d'uscita dalla prostituzione. Al termine del programma, una delle raccomandazioni rivolte al municipio di Oslo fu di criminalizzare i compratori di sesso, e sosteneva che una legge di questo tipo potrebbe essere uno strumento nell'opera tesa a limitare la domanda, l'invio di un segnale chiaro che la società non è disposta a accettare l'acquisto di un essere umano. Una legge di questo tipo potrebbe rendere i potenziali clienti riluttanti a diventare clienti attivi e indurre i clienti attivi a non ripetere le loro azioni. The Oslo project collaborated closely with a similar Swedish outreach program in the city of Malmö, and some years later the Swedes also the researcher social workers also recommended the criminalization of the buyers. The feminist movements in both countries, Sweden and Norway, did policy advocacy for such a law. In Norway, it took 30 years before the law was passed in 2010, 10 years after Sweden, which got its law in 1999. The majority of the population in Sweden and Norway, they were in favor of the law when it was passed, and they still are. Quindi il progetto di Oslo è stato attuato in stretta collaborazione con il programma di sostegno svedese a città di Malmo, e alcuni anni dopo anche loro raccomandarono la criminalizzazione dei compratori. I movimenti femministi hanno esercitato pressioni politiche in entrambi i paesi a sostegno di questa legge. In Norvegia ci sono voluti 30 anni prima che la legge venisse approvata, nel 2009, 10 anni dopo la Svezia, la maggioranza della popolazione era a favore della legge e tuttora lo è. The Norwegian national law. Since 1884, selling of sexual access has not been a criminal offense. And since 1884, no prostituted women or men have been arrested for selling. When in 2009 the buying of sex was criminalized, Norway had already several other laws in place: a ban of pimping and brothels, buying of sex from minors, and trafficking of human beings. Internationally, Norway had signed the UN Convention of 1949, the CEDAW Declaration, the Palermo Protocol, and the European Convention Against Trafficking of Human Beings. La legislazione nazionale norvegese dal 1884 che la vendita dell'accesso sessuale non è mai stata considerata un reato, e da allora nessuna donna in prostituzione è mai stata arrestata per questa attività. Quando nel 2009 l'acquisto di sesso divenne illegale, la Norvegia aveva già diverse altre leggi in atto: il divieto di genocidio, la messa al bando dei bordelli, il divieto d'acquisto di servizi sessuali da minorenni e della tratta di esseri umani. The Norwegian law covers the same topics as the Swedish law, but the rationale of the law differs. In Sweden, the law focuses on equality between women and men. In Norway, in 2009, the main rationale for implementing the law against commercial sex was to prevent and reduce human trafficking in Norway. That said, by making it illegal to buy sexual access, the Norwegian government wanted to change attitudes in the population, reduce the size of Norwegian sex market by constraining supply and demand, prevent entry into prostitution, and hence to reduce possible sexual exploitation of women in prostitution. The law also seeks to protect people in prostitution and to help people with a transit out of prostitution and becoming a survivor. Allora, la legge norvegese verte sugli stessi temi di quella svedese, ma si fonda su un criterio diverso. In Svezia la legge è incentrata sull'uguaglianza tra uomini e donne. In Norvegia il criterio principale per l'applicazione della legge contro il commercio sessuale era il seguente: prevenire e ridurre la tratta degli esseri umani in Norvegia. Detto questo, rendendo illegale l'acquisto dell'accesso sessuale, l'intento del governo promuovere un cambiamento di atteggiamento nella popolazione, ridurre le dimensioni del mercato del sesso in Norvegia attraverso la riduzione della domanda e dell'offerta, evitare l'ingresso a prostituzione e di conseguenza ridurre l'eventuale sfruttamento delle donne in prostituzione. La legge cerca inoltre di tutelare le persone in prostituzione, aiutare le persone nel percorso di fuoriuscita dalla prostituzione e a diventare sopravvissute. In 2014, 5 years after adopting the law, the Norwegian government evaluated its effects. And the main findings are: One, the ban on purchasing sexual services has reduced demand for prostituted sex, reduced. And thus contributes to reduce the extent of prostitution in Norway. Two, the enforcement of the law in combination with the laws against trafficking and pimping makes Norway a less attractive country for prostitution-based trafficking than what would have been the case if the law had not been adopted. Three, furthermore, following the implementation of the law, the economic conditions for prostitution in Norway are reduced. And all these effects are in line with the intention of the law. Valutazione. Nel 2014, a 5 anni dall'adozione della legge, il governo norvegese ha condotto una valutazione sugli effetti della legge. Risultati principali. Il divieto d'acquisto di servizi sessuali è servito a ridurre la domanda di sesso prostituito, contribuendo in questo modo a ridurre l'entità della prostituzione in Norvegia. L'applicazione della legge associata a legislazione contro la tratta di esseri umani e l'omicidio rende la Norvegia un paese meno attraente per la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale rispetto a quanto non sarebbe stato se la legge non fosse stata adottata. Tre, inoltre, in seguito all'applicazione della legge, le condizioni economiche che favoriscono la prostituzione in Norvegia subiscono delle restrizioni. Questi effetti sono in linea con gli intenti voluti dalla legge. Young men in Norway have changed their attitude towards buying sex. They have changed more than older men. The law has had a normative effect on people's behavior. The ban of purchasing sex in combination with the ban of pimping and brothels have made it harder to sell sexual activities in Norway. The possible cost for the actors benefiting from others' prostitution has thus increased and their profit has been reduced. This has affected the supply side of the market and contributed to less prostitution in comparison to a situation without a law. And it is less attractive for human traffickers. A reduced market and increased law enforcement increase the risks for human traffickers. The profit from human trafficking is also reduced due to these factors. The law has thus affected important pull factors and reduced the extent of human trafficking in Norway in comparison to a situation without a law. There would have been 35% more prostitution in Norway today if we did not have had the law. And we can compare Norway to Denmark, for example, the same 5 years. 35 more, less prostitution in Norway with the law than without. Allora, gli effetti sugli atteggiamenti. Gli uomini giovani in Norvegia hanno cambiato il loro atteggiamento nei confronti dell'acquisto di sesso di più rispetto agli uomini più anziani. La legge ha avuto un effetto normativo sul comportamento delle persone. Riduzione del mercato. Il divieto di acquisto di sesso associato al divieto di lenocinio e la messa al bando dei bordelli ha reso più difficile la vendita di attività sessuali in Norvegia. Così facendo, gli eventuali costi degli attori che traggono profitto dalla prostituzione altrui sono aumentati, i loro profitti diminuiti. Questo ha modificato il mercato sul lato dell'offerta e ha contribuito a una riduzione della prostituzione rispetto alla situazione che sarebbe creata se la legge non fosse stata adottata. Minore attrazione per i trafficanti di esseri umani. La riduzione del mercato e l'aumento delle forze dell'ordine preposte aumentano i rischi per i trafficanti degli esseri umani. A causa di questi fattori si riducono anche i profitti che derivano dalla tratta di esseri umani. La legge ha modificato in questo modo importanti fattori di attrazione e ha ridotto l'entità della tratta di esseri umani in Norvegia rispetto alla situazione che si sarebbe creata se la legge non fosse adottata. Se non avessimo adottato questa legge in Norvegia avremmo avuto un 35% di prostituzione in più. Here I will give you some information about Amnesty International. Amnesty International made their decision to recognize prostitution as sex work in Dublin 1915, and they said that their position was based on four field report research from four different countries. And one of the countries was Norway. This is very important. Allora, Amnesty International di recente ha praticamente firmato un documento sulla prostituzione e dichiarando di aver fatto delle ricerche su quattro diversi paesi. Uno di questi paesi che è stato preso in considerazione da Amnesty è proprio la Norvegia. The title of the report about Norway was this: The Human Cost of Crushing the Market. Criminalization of sex work in Norway. And that was the title, criminalization of sex work. Who is criminalized in Norway? In Norway, it is the pimps, the brothel owners, the traffickers, the drones. But Amnesty made a title that it implies that those who are selling sex are criminalized. They are not. Quindi il titolo che hanno dato praticamente a questa ricerca è la criminalizzazione della prostituzione che loro chiamano sex work in Norvegia. Ma chi è che è criminalizzato in Norvegia? Chi è penalizzato in Norvegia? I sfruttatori, i proprietari di bordelli, i trafficanti, i compratori di sesso. Questi sono criminalizzati, non le persone della prostituzione. Quindi di che cosa sta parlando Amnesty? Usa questo titolo, criminalizzazione, ma in Norvegia sono criminalizzati non le persone nella prostituzione, ma chi sfrutta. What sort of methodology did Amnesty use to produce those reports? They say in first page they write, this report is a part of a series of research reports. But is it research? Did they do a good job qualifying to name it as research? The research carried out by Amnesty is qualitative. So this document does not present its finding in quantitative terms, they state. Quindi, in questo studio, entrando nel merito dello studio, qual è la metodologia che è stata usata? Che serie di ricerche hanno fatto? È una ricerca, possiamo considerarla veramente una ricerca seria, un buon lavoro? Loro hanno portato appunto, dice, che è qualitativo, però è una ricerca qualitativa, ma non ha praticamente dati, risultati in termini quantitativi. Yeah. Ok, they might well write this. But this report is nevertheless not an independent research. The report stands out as biased, and we cannot let Amnesty get away with this biased way to treat important issues and call it research. Ok, yeah. Quindi loro potrebbero dire questo, ma non si tratta appunto di una ricerca indipendente, ovviamente. Questo report è evidente che non è una ricerca condotta secondo termini indipendenti e quindi non possiamo permettere che Amnesty la faccia franca Gateway e tratti diciamo questo importante argomento così e lo poi riesca lo venda come ricerca quando non lo è. Why did they pick Norway? Qualitative, non quantitative. Non è d'accordo? No, sono qualitative e non quantitative. Adesso yeah, they say so, but even the less it's not research. I will come to that now. Adesso why arriva. Adesso ti spiega okay. Perché non è ricerca. Yeah. Okay, I'm coming. Why did they pick Norway? What is special with Norway? Why didn't they pick Sweden? Would have had the law for 15 years. Why did they pick Norway? Perché hanno preso proprio la Norvegia? Questo è il primo punto su cui chiederlo, perché c'è la Svezia che molto più anni. Perché? Sì. Okay, in 2013 we got a new government in Norway. And that government went to said during the election, vote. Those parties said, vote on us, we will take away the law. And they gained the majority and formed a government. Several parties. Yeah, several parties. So that's why the Norway was interesting for amnesty. Because the change of the law. Yeah, the change of the government. That could be the amnesty report could be a pull factor so that the government actually would do what they had promised, take away the law. Ok, benissimo. Quindi il motivo per cui hanno scelto proprio la Norvegia è perché si sarebbe dovuto formare il nuovo governo a partire da diversi partiti e poteva essere quella della prostituzione un'occasione per poter togliere la legge con il cambio di governo, riuscire a togliere la legge attuale abolizionista. This was in 2014 when Amnesty did the 2014, quando ha fatto la ricerca, esattamente nel 2014. No, we are in 2017. The government has not taken away the law. Però questo non è successo perché siamo nel 2017 e la Norvegia non ha tolto la sua legge, è rimasta con la legge abolizionista. We will not do it during this period, they have said. Dicono che non l'hanno fatto in questo periodo. But Amnesty didn't know that. So they picked Norway. Another thing is that a huge part of the report is a so-called desk-based research on a selection of articles written by Norwegian academics, and Amnesty quotes them heavily. Quindi principalmente è praticamente ricerca fatta a tavolino, desk-based research, quindi che si basa su articoli pubblicati da altri accademici più che una vera ricerca sul campo, quindi una cosa fatta semplicemente prendendo dati di altri accademici, informazioni. Many of the articles is written before the law and not after the law. E quindi la maggior parte di questi articoli su cui loro sono basati sono stati scritti prima della legge e non dopo la legge. Those written after the law is mostly written by the academics. E quelli che sono stati scritti, quelli analizzati che sono stati scritti dopo la legge, principalmente sono stati scritti da solo tre accademici. Two of them were active up against the Honeyball report when it was debated and voted on in the European Parliament. They signed the international paper against Honeyball together with Sex Workers Alliance of the World. Quindi due di questi accademici, che sono due di questi articoli accademici, sono stati scritti da due accademici che in realtà sono stati molto attivi contro la risoluzione Honeyball e hanno firmato anche un diciamo manifesto internazionale del Sex Works. Here we have two researcher academics that have been working 10 years or more against the Norwegian law that criminalized the buying of sex. That is their academic research. Quindi questa è la loro ricerca accademica, che semplicemente due su tre sono stati attivi per 10 anni contro la legge norvegese invece. After the law, after 2009, these academics and other that Amnesty quotes has made letter to the editor, opinions, okay, not research, opinions. Questi articoli accademici che sono stati consultati da Amnesty in realtà sono articoli di opinione, non sono ricerche con dati, sono semplicemente articoli di opinione. It's difficult for foreign readers to know this. Molto difficile per gli stranieri, per chi legge, appunto chi è straniero, sapere tutto questo. But there is one report written in 2012 that made headlines internationally, and that was the report called Dangerous Liaisons, about stating that violence had augmented, increased after the ban of buying sex in Norway. The person in prostitution experienced more violence after the law. Quindi uno di questi report che è stato pubblicato nel 2012, quello che è stato più famoso e che su cui si è basato di più Amnesty o altri, che si chiama Dangerous Liaison, sostiene che la violenza sia aumentata per le donne nella prostituzione dopo che è stata approvata la legge norvegese. This report is quoted 26 times in the Amnesty research. E questo report viene citato almeno 20 volte da questa famosa ricerca di Amnesty, sempre lo stesso report. Without saying that the institution that ordered that report, the day after the report was launched, had to take it back. E questo che non viene detto è che le istituzioni che avevano commissionato questo report, praticamente pochi giorni che era stato lanciato, l'hanno ritirato. Because when you are saying violence has increased, you are comparing to something else. And the two things that they were comparing to, 2012-2009, the questions were not the same. In 2012, you have added more examples of violence. For example, sort of, I'm doing like this in 2012, I didn't do it in 2009. I mean, it's silly things like that. It was not comparable at all. And there were only 9 women answering. Allora, quindi diceva appunto che la violenza era aumentata, ma era proprio il tipo di confronto che era assurdo, perché è chiaro che si erano aggiunti dopo la legge nuovi esempi di violenza sanzionabile, e quindi se si confrontava il 2012 con il 2009, è chiaro che nel 2012 si erano aggiunte nuove forme di violenza o riconosciute come effetto della nuova legge, cose che non venivano riconosciute prima del passaggio della legge. Un'altra cosa importante è che le donne intervistate, consultate, erano 9. Amnesty also interviewed the Minister of Justice, people there, a senior advisor. They interviewed the head of the police in Oslo, and they were also, they could read through the what they have said and say, yes, we said so. But when the report came, they had been cut and pasted out of recognition. Quindi avrebbero potuto consultare Minister of Justice, Head of Police in Oslo, abbiamo solo 3 minuti, e anche il capo della polizia di Oslo, ma And Justice, Minister of Justice. Il ministro della giustizia. Yeah. These people, when they saw the Amnesty report, they went publicly attacking Amnesty for what they had, saying that Amnesty had just made a report that suited them. This is not what the context where our posting has been taken out of context. Quindi praticamente Amnesty è stato attaccato anche dal Ministero della Giustizia, perché hanno dimostrato come tutte le citazioni che loro avevano preso sono state tolte fuori dal contesto semplicemente per manipolare i dati. Yeah, I will end by saying that you cannot legalize away the violence and the harm. Non è possibile legalizzare il danno, lo sfruttamento, la violenza. Violence is inherent in prostitution, but Amnesty, who wants to legalize prostitution, does not address the harm. Quindi la violenza è intrinseca nel mondo della prostituzione. Amnesty, che vuole legalizzare la prostituzione, in realtà non vuole togliere questo danno, questa violenza che le donne subiscono. Reading the report on Norway, we question the whole foundation of Amnesty. It seems inconceivable to advocate for women's rights and gender equality, as Amnesty does, and on the other side, designate a whole category of person for whom life made of humiliation, attacks on the dignity, and violence would be acceptable. Quindi semplicemente dopo questa decisione è chiaro che Amnesty ha perso tutta la sua credibilità per quanto riguarda la lotta alla violenza di genere, perché secondo Amnesty va bene che ci siano delle donne che vengono umiliate, a cui viene attaccata la propria dignità, che vengono sottoposte a violenza, e questo va bene. The traffickers are the only ones that Amnesty excludes from the decriminalization, but prostitution and trafficking of women are inseparable. Consenting women are largely insufficient. There are not enough consenting women to satisfy the sex trade. So pimps network force the missing women into this activity. E quindi la cosa che non è possibile separare, è un grave errore di Amnesty, è la tratta di esseri umani dalla prostituzione, perché sappiamo benissimo sono due cose assolutamente inseparabili, perché la rete degli sfruttatori, della rete dei trafficanti coincidono. 93% of prostituted women in Norway are foreigners. No, Norwegian. Delle prostitute in Norvegia straniera, non sono norvegesi. Amnesty of course condemns forced prostitution and declares voluntary prostitution acceptable. It is no longer the prostituted women's situation made by daily humiliation and violence which is questioned, but only the question if she was forced into this situation or not. Quindi l'unica cosa che interessa a Amnesty non è capire se una persona subisce delle violenze e quali sono le sue condizioni, ma semplicemente se è stata forzata oppure no. By this I want to end my intervention and I wish you good luck. But before I stop, I would say something about... I would like to thank SOE Agathise because of her... everything we know in Norway from the when we start working for the law, especially around 2000, everything we know about human trafficking. In the first place, we learn from SOE. Quindi vuole ringraziare SOE perché tutto quello che hanno saputo in Norvegia sul traffico di esseri umani She is well known in Norway in the women's movement. First, there. She is well known in the high school university that educates the police force. Quindi è molto conosciuta sia nel movimento femminista che anche nell'ambito del training per la polizia. They invited her to say, what is human trafficking about? And she is well known to politicians from several parties. She is well known to trade unions. Quindi è conosciuta anche dai partiti politici, dai sindacati. So... yesterday in the dinner, Grégoire asked me if I ever got emotional, and I said no. But I do get emotional when I think what we have, that what you have given us. So, yes, I do that. Oh, thank you. I'm embarrassed. Thank you. It's been a long, long journey. We have to close now. Yeah. I'll still ask you a little bit to translate. Yes. We have to close now because they need this hall. There's another group coming. But before we close, I want to express my profound gratitude to Taina, Agneta, to Marie, above all, to Grégoire who had to leave, to Eva who came to be with us from Kenya, to my dear Nika, she's incredible. She's just fantastic with what she does. to Chiara and the group of Resistenza Feminista behind the scenes doing all the translations late into the night. Yes. No sleep, yes. No rest. I mean, it's incredible. Incredible amount of work that they've all put in. I want to thank everybody. I want to remind you all that the job we have to do is much bigger ahead. We are just at the beginning. There's a lot of work to do. Sure. We need you to support us. We are not in the minority. No. We are the silent majority. So the fear is not that the bad, or I don't want to use the word bad, that the other side, because they believe they are protecting women, but they are not. And most of them know they are not. Is that they are much more vocal. But the majority is silent. We need to raise our voices. Yes. We need to begin to bang on doors. To say, we want to be heard. We want to change. And so we need to work together. Thank you all. Thank you all. Bene, siamo arrivate alla fine della trasmissione. Vi ricordo che siete all'ascolto della trasmissione Contro Essenze, curata dalle connettive. E, avete ascoltato in questa puntata due estratti del seminario internazionale sul modello nordico, tenutosi a Roma il 19 e 20 gennaio di quest'anno. E, per chi fosse interessata agli argomenti trattati in questa puntata, vi rimando al sito del martedì autogestito da femministe e lesbiche, www.mfla.noblogs.org, dove troverete nella categoria Contro Essenze altri audio sulla questione. Per ulteriori approfondimenti vi consiglio di visitare il sito Resistenza Femminista, www.resistenzafemminista.it, che viene aggiornato periodicamente con articoli, testimonianze di sopravvissute e notizie a livello mondiale. Grazie per l'ascolto e alla prossima. Crudas, de Cuba, para el mundo, internacionales, presentes. Crudas, Cubensi. Las mujeres resistiendo. This is Hepa. Resistiendo. Black people. Resistiendo. Emigrantes. Resistiendo. Internacionalista, Cuba, Colombia, Ghana, Australia, China, Rusia. Nuestra lucha, nuestra lucha, nuestra lucha.